O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte di eterno amore. Amo. Ecco. Questo canto che abbiamo cantato, questa invocazione dello Spirito, mi è piaciuto fino a un certo punto. Quindi adesso io inviterei Stefania, di nuovo, tanto ormai lei è rassegnata, quindi in obbedienza, a suonare lo stesso canto, però non guariscimi, rinnovami, ma guariscici, rinnovaci, perché il tema di oggi dovrebbe portarci proprio a questa conclusione, che siamo un popolo in cammino. Spirito di Dio, riempici. Spirito di Dio, avvezzaci. Spirito di Dio, consacraci. Vieni ad abitare dentro noi. Spirito di Dio, amici. Spirito di Dio, rinnovaci, rinnovaci. Spirito di Dio, consacraci. Vieni ad abitare dentro noi. Dentro noi. Vieni ad abitare dentro noi. Grazie. Sapete perché è tanto importante passare da quel mi a quel ci? Perché noi abbiamo ormai assunto una visione privatistica della fede. Io ho un rapporto con Dio, l'importante è che io e te ci intendiamo. L'importante è che io mi salvo, l'importante è che io guarisca, l'importante è che tu risolvi i miei problemi. Ed è proprio una preghiera, espressione dei tempi attuali, dove quello che prevale è proprio l'individualismo. Quante scelte spirituali, quante scelte facciamo, considerando esclusivamente la mia posizione davanti a Dio, o il mio rapporto con Lui. Tant'è, questo lo diciamo senza far sentire niente al microfono qua. Ora, noi rischiamo di fare altrettanto. Non sto dicendo che noi siamo i più bravi, no, no. Sto dicendo che la gente viene da noi perché trova la fraternità. Io vengo in fraternità, io oblato, no? Mi trovo bene con Enzo, ok? Parlo con Enzo, no? Ho un accompagnamento da parte di Enzo. Ma non ho un legame solo con Enzo, ho un legame con la fraternità e io vivo il rapporto di fraternità con i miei fratelli oblati. Non può esserci questo rapporto uno a uno, vuol dire che noi non abbiamo capito la Chiesa. Noi non abbiamo capito che siamo un gruppo. Voi siete il gruppo degli oblati di San Quirino, ma vi considerate gruppo? Prego. No. Non lo so. Non so se ho spento tutto. Sta andando, voglio rischiare. Quindi, e questo dipende dallo sguardo che abbiamo sulla vita, da come guardiamo e ascoltiamo la vita. Se la guardiamo individualisticamente, con il nostro io al centro, state certi che tutte le nostre scelte, saranno anche quelle spirituali, saranno finalizzate a costruire il rapporto intimo tra me e Dio. Stop, finito tutto lì. Quello che sta facendo Papa Francesco è quello di aprirci al mondo, alla carità verso gli altri. Perché batte tanto sui poveri? Perché il povero ti deve comunque scuotere, aprire almeno gli occhi, aprire le orecchie sul fatto che esiste un altro accanto a te che sta peggio di te. Ma in realtà lo scopo, la finalità del pontefice è quello di aiutarci ad aprirci all'altro che sta vicino a me, accanto a me, di fianco a me. Allora, il gruppo degli oblati è il gruppo degli oblati, non sono io che faccio il mio cammino catechetico, ok? Allora, qual è la visione che soggiace al nostro modo di guardare le cose? Stamattina Nicola ha parlato di questo, ha detto: il Signore ci interpella come singoli e come comunità. Il Signore ci interpella come singoli e come comunità. Io direi di più. Nel testo che lui ha citato, quello di Matteo, dell'abito nuziale, io mi domanderei e farei questa domanda: ce l'abbiamo noi l'abito nuziale? O ognuno va per i fatti suoi? Ognuno cerca di indossare il suo abitino su misura, dal suo sarto personale? Ce l'abbiamo l'abito nuziale? Cioè, noi abbiamo costruito una compagine comunitaria di oblati tale per cui stiamo camminando insieme e ognuno è preoccupato del cammino dell'altro? Dubito. Non voglio dire di no, ma dubito. In certe cose sì, in certe altre no. E non basta mangiare insieme. Dobbiamo istituire strutture, processi, avviare processi che ci aiutino ad avere una visione comunitaria della vita, dove io solidarizzo con l'altro, mi preoccupo, mi prendo cura dell'altro. Grande parabola di quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti. Oh, passa lo scriba, passa il sacerdote, dice il testo, passò oltre. Un samaritano, quindi che non era di quelle terre, se quell'uomo che incappò nei briganti scendeva da Gerusalemme era un giudeo. Il samaritano che passava da quella strada, che era una strada che in qualche modo collegava con Gerico, che era non era certo la città più stimata, no? Fra le città della Palestina, quell'uomo che commerciava in quella zona, che era samaritano, quindi era in odio ai giudei, e i giudei erano in odio ai samaritani, si ferma e, dice il testo, per due volte lo ripete, si prende cura di quell'uomo. Ed era un uomo talmente autorevole nel fare questo che al locandiere dice: se dovrai spendere altri soldi, te li rifonderò al mio ritorno. Pensate che autorità che aveva quell'uomo. Cioè era risaputo che era un uomo capace di prendersi cura e di andare fino in fondo sulla parola data. Allora, andiamo a noi? Ma che gruppo siamo? Come la viviamo la nostra relazione? Farò una proposta ai referenti oblati prima di andare via. Ma è tanto importante che noi comprendiamo qual è il modo di vedere che noi abbiamo. Tutto quello che guardiamo, tutto quello con cui veniamo in contatto ogni giorno, tutto quello che pensiamo, esprimiamo, indichiamo, necessita della mediazione di simboli. E il titolo di questa catechesi sarà proprio questo: la visione simbolica della vita. Che siano lettere, simboli di suoni, numeri, simboli delle quantità, parole, simboli di concetti, immagini, simboli di idee. In tutti questi casi la mente umana ha bisogno di utilizzarli per collegare una realtà tangibile a una puramente intellegibile. Ciò che si tocca e ciò che è teoria devono essere messi in contatto attraverso qualcosa che si chiama simbolo. Il simbolo non è segno. Diciamo innanzitutto che cosa non è il simbolo. Che cos'è un segno? O dice Sant'Agostino, il segno è una cosa che fa venire in mente un'altra cosa. Facciamo un esempio. Un segno è l'orma, ossia l'impronta lasciata sulla sabbia. Dalla forma, uno che trova sulla sabbia un'orma comprende di chi è, se è di un uomo o se è di un cane. Dall'orma si arriva a intuire la presenza di qualcuno. L'orma, cioè, rinvia oltre se stessa. Un altro segno naturale è quello del fumo. Dove c'è fumo, c'è... è immediato e tutti lo capiscono. Qualcosa sta bruciando. Fin qui siamo a livello di segni naturali. La distinzione più importante forse è fra segno naturale e segno convenzionale. Qui si complica la storia. Un aborigeno dell'Australia e un professore, un dotto professore di Germania, che osservano delle impronte sulla sabbia, hanno la stessa identica reazione. Capiscono il segno allo stesso modo, è un segno naturale. C'è un'orma, bene, quell'orma è di un gatto, lo capiscono tutti. Quando però si tratta di parole intese come segni convenzionali, la parola scritta cane e la parola scritta dog non la capiscono mica tutti, Sono segni convenzionali e non assomigliano tra loro. Ogni cultura lo intende. La cultura inglese capisce dog, ma se io parlo con una signora della bassa Lombardia, dell'Odigiano, che ha 80 anni, gli dico dog, e quella mi guarda e dice, sei scemo, non capisce che io sto parlando di un cane, dog. Per farle capire che c'è un cane, devo dire cane. Chiaro? Fin qua? Quindi, il segno naturale lo comprendiamo tutti, il segno convenzionale no. Ok? Nei Vangeli, la maggior parte dei segni non è di tipo naturale, ma convenzionale. Per comprenderli, quindi, abbiamo bisogno di comprendere il contesto nel quale è stato scritto quel Vangelo. Se io devo leggere il Vangelo, supponiamo, di Giovanni, devo capire che devo entrare nel contesto, nell'ambiente biblico giudaico, altrimenti capisco poco. E infatti, molte volte noi capiamo poco dei Vangeli, perché sappiamo poco del contesto giudaico nel quale i Vangeli sono stati scritti, giudaico oppure greco. Bisogna entrare nel modo di pensare di quelle persone per capire quel Vangelo. Supponiamo di prendere sempre il Vangelo di Giovanni, un esempio, il pozzo della Samaritana. Non può essere semplicemente un pozzo. Che cosa può far venire in mente un pozzo? E poi il pozzo della Samaritana è un pozzo che è il pozzo di Giacobbe. Ma non è scritto pozzo di Giacobbe, è scritto che è il pozzo della Samaritana. O meglio, c'è un riferimento, ma se non conosci la storia biblica, non sai che quello è veramente uno dei pozzi dell'alleanza tra Dio e Giacobbe, tra Dio e l'uomo. Quindi quel pozzo non è solo un pozzo, ma rimanda a tutta una serie di segni importanti da intendere. Ora, il pozzo rimanda a molteplici significati, ma qual è quello giusto? Perché a seconda di come io interpreto, comprenderò il Vangelo in un modo o in un altro. Capite le differenti, diverse interpretazioni dei Vangeli. E capite anche perché la Chiesa Cattolica sta molto attenta a proporre la lettura della Sacra Scrittura in un contesto comunitario. L'errore più grande dei testimoni di Geova è stato quello di seguire questo Russell, il quale ha interpretato a modo suo, svincolato da una comunità cristiana, l'intera Sacra Scrittura, arrivando a dei paradossi assurdi. Nel sangue c'è la vita, quindi zero trasfusioni di sangue. Ma tutto questo non è letto in un contesto comunitario e dunque viene interpretato in maniera privatistica. Privatistica vuol dire con mille possibilità di errore. È molto interessante come all'inizio, sempre del Vangelo di Giovanni, oggi parliamo del Vangelo di Giovanni, comunque all'inizio del Vangelo di Giovanni è lo stesso autore che spiega alcuni termini. Rabbì, che significa maestro. Vedete come lo stesso autore va a dare il significato di quella parola. Ce ne sono diverse, adesso ho lasciato in camera la Bibbia. E forse qui. C'è un testo interessante Siamo al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni. Rabbì, che significa maestro, dove stai? Poi più avanti, Andrea che incontra suo fratello Simone, abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo. Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che si traduce Pietro, no? Per dire come è proprio la comunità che mi aiuta a non sbagliare. E dunque noi, quando passiamo da un rapporto individualistico, privatistico con Dio, ci sganciamo quindi da un rapporto comunitario con Dio, noi rischiamo di incappare facilmente in gravi errori di interpretazione. Restiamo non soltanto soli dal punto di vista esistenziale, questo ci fa male, ma rischiamo di percorrere strade sbagliate. Ecco perché la nostra preghiera è tanto comunitaria, non è solo personale, ma è comunitaria, perché nella comunità c'è una forza incredibile, c'è una presenza incredibile. Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Vi do garanzia che quando siete due o più, allora io sono in mezzo a voi. Il semeion, significa segno, essendo una cosa che fa venire in mente un'altra cosa, indica una dualità. Esistono cioè due elementi che il segno mette in collegamento. Il semaforo rosso significa fermati, stop. Il semaforo verde significa procedi. Due cose vengono messe in contatto, due elementi vengono messi in correlazione. Questo è il segno. Permette quindi di passare da un elemento a un altro. Il fumo fa arrivare al fuoco, l'orma fa arrivare a chi l'ha lasciata, il pozzo fa arrivare a una sorgente che disseta. Nella cultura teologica è presente un continuo riferimento alla dualità dei piani, basso, alto, il mondo dell'uomo e il mondo di Dio, quello che vedi e quello che è realmente. L'idea fondamentale quindi è arrivare a una visione del mondo a doppio livello. E arriviamo così a un altro concetto, che è quello di simbolo. Che cos'è il simbolo? Sono un po' difficile? Mi seguite? Ok. Il simbolo deriva dall'unione del prefisso sum, insieme, con il verbo ballo, sum ballo, simbolo. Ballo significa getto, io getto. Letteralmente è un gettare insieme, un mettere insieme, è un unire, un armonizzare. Prendo due cose e le metto insieme, ok? Questo ci fa capire immediatamente il significato profondo dell'unità. Simbolo è quello che mette insieme, che crea tra significante e significato una simbologia, un qualcosa di più che non dice il singolo pezzo, ma che dice l'intero. L'intero è una pienezza, una completezza. L'unità diventa pienezza di significato. Due elementi si ricongiungono e danno senso e esprimono un senso più grande. Adesso facciamo degli esempi. Diaballo, diavolo, arriva da diaballo, che significa gettare lontano. Gettare separati, tenere lontani, come si dice, divisi, ok? Sun ballo, dia ballo. Il simbolo unisce, il diavolo divide. Ok? Hanno la stessa etimologia, no? Sono costruiti più o meno alla stessa maniera. Il simbolo allora è una delle due parti che deve essere messa insieme all'altra per dare un senso, un significato profondo. Mentre il semaforo rosso ti dice di fermarti, è un significato solo. Rosso uguale fermarti, ma nella nostra diciamo comunicazione convenzionale, se io prendo il senso, la parte, l'elemento rosso, non mi dice niente. Se non entro in un gioco di segni, quel rosso non mi dice niente. Il simbolo invece ha un significato perché ti rimanda a qualcos'altro, ma cerca l'altra parte per completarsi. Vediamo. Lo sapete che una volta, quando si esponevano i bambini piccoli agli orfanotrofi, cioè una famiglia che economicamente non ce la faceva, non c'era l'aborto, no, eravamo più progrediti una volta, no? Avevamo una sapienza della vita, ma c'era chi economicamente non riusciva per varie ragioni a portare avanti un altro figlio, lo espongo all'orfanotrofio. Di solito lo mettevano su quella ruota, veniva appoggiato lì, e le suore all'interno del monastero, chi per loro, anche i frati, ruotavano, ricordate la storia di Marcellino Panevino? No? In realtà giravano quella ruota e prendevano il bambino. Insieme al bambino la famiglia metteva un pezzo di stoffa, che era una parte di un fazzoletto, l'altra parte la tenevano loro, perché dicevano: quando un domani riusciremo a riprenderci nostro figlio e a mantenerlo, andremo al convento e lo riconosceremo grazie alla parte mancante. Quindi i genitori arrivavano con il pezzettino di stoffa, veniva preso l'altro pezzettino di stoffa che stava con il bambino, lo mettevano insieme e la monaca riconosceva se effettivamente quella era la famiglia d'origine del bambino. Se lo era, il simbolo dichiarava la salvezza del bambino, cioè la possibilità di ritornare ai suoi genitori. I due elementi uniti restituivano significato pieno ai due elementi separati. Chiaro? Diaballo, diavolo, indica la tessera falsificata. Lui è quello che ti fa credere che se accetti la sua proposta diventi una persona completa, realizzata, avrai una visione della vita piena. È furbo, eh? Gesù invece è simbolo. Perché? Perché è colui che dà alla tua vita invece un significato di pienezza, perché unisce alla tua umanità lo sguardo soprannaturale, divino, che ti riporta dentro il disegno originario della tua creazione. Cioè tu sei stato pensato a immagine e somiglianza di Dio, a un certo punto il tuo modo di vedere le cose è solo umano, ma se ti unisci a Gesù che è simbolo, lui ti permette di vedere il disegno completo. Ricordate quello che vi ho letto poco prima, cioè alla fine dell'incontro che abbiamo fatto ieri? Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Dice a un certo punto, ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. A un certo punto Gesù manda lo Spirito perché tu possa avere uno sguardo completo sulla vita, uno sguardo appunto simbolico, che tu possa leggere la realtà nella sua pienezza, non soltanto un pezzo o quel pezzo legato a una tessera falsificata, ma a una pienezza di significato. Questa pienezza di significato è proprio il collegamento tra l'umano e il divino che sta in tutte le cose. Quando io guardo le cose solo dal punto di vista umano, io sto guardando le cose dal punto di vista di Adamo ed Eva dopo il peccato originale, dopo il peccato originale. Se so guardare l'insieme, gli aspetti divini e umani insieme di una realtà, cioè la vedo nella sua completezza, sono Adamo ed Eva, sono come Adamo ed Eva prima del peccato originale. Era necessario restituire uno sguardo completo all'uomo? Sì, ecco perché arriva Gesù. Gesù ti afferra, ti prende con sé, si fa mangiare perché tu dentro possa avere uno sguardo completo sulle cose. Dentro di te la realtà divina ti trasforma, si unisce alla tua realtà umana e tu cominci a muoverti come creatura di nuovo a immagine e somiglianza di Dio, pienamente redenta. Quando Gesù entra nella nostra vita con il battesimo, noi improvvisamente viviamo una vita nuova, cioè noi viviamo uno sguardo nuovo sulle cose. Sappiamo vedere cose che chi non è battezzato non vede. Perché chi non è battezzato è ancora segnato dal peccato originale. Non parliamo di fratelli e sorelle di altre religioni. Lì interviene una grazia speciale, una grazia particolare determinata dal fatto che molti nascono in contesti dove Cristo non è conosciuto. Ma Gesù, quando arriva, fa questo, ti restituisce una visione simbolica della vita. Ti permette quindi di afferrare l'unità. Ora, la domanda è chiaro che sorge spontanea, ma voi vi vedete nell'unità del gruppo degli oblati? Vi vedete uniti? Ho anticipato le conclusioni. Perché se non vi vedete un corpo solo, avete uno sguardo ancora claudicante, uno sguardo ancora limitato. Se non vedete che il Signore vi sta portando verso una unità, una comunione con la Chiesa, voi avete ancora uno sguardo miope. La stessa cosa è chiesta a noi, Fraternità Francescana di Betania, a noi consacrati. Ma tu cosa, quando guardi la fraternità, come la guardi? La guardi con lo sguardo di Gesù che ti permette di vedere una porzione di chiesa o ti guardi come una sommatoria di individui dove ognuno cerca di realizzare se stesso? Questa è la differenza tra un oblato che nel mondo vede, anche quando è in coda a un ufficio postale, vede l'insieme, vede l'unità, vede gente in cammino insieme con lui, vede dei fratelli, e chi invece vede semplicemente la realizzazione di sé, il fatto che a una certa ora devo andare, tu mi devi servire, tu mi devi dare quello che ti sto chiedendo, a me non interessa che quell'altro sia in coda con me, a me non interessa di quello che devi fare tu, non mi interessa se stai agonizzando accanto a me, anzi, se ti sposti mi fai una cortesia, perché così io ho più spazio per potermi in qualche modo affermare. Questa è la visione, le due visioni del mondo. Noi abbiamo la possibilità di vedere alla maniera del diavolo, separata, e la maniera di Dio, di Gesù, simbolica, l'unità tra le cose. Ma per avere questo sguardo, cari fratelli e sorelle, bisogna eliminare tutto ciò che le nostre passioni emotive ci impediscono di vedere. E torno alla prima catechesi. Devo, ritornando allora anche a quello che diceva Nicola, devo mettere Dio prima del mio io. Perché Dio è l'insieme, Gesù è il corpo mistico della Chiesa. Gesù, quando io prendo sull'altare quel pezzo di pane, io dichiaro, Enzo scusa, mi fai una cortesia, mi prendi il messale? Così vediamo un attimino le parole che sono riportate. Perché se non capiamo questo, noi non capiamo che quando vado a mangiare l'Eucaristia, io mangio un pezzo di Nicola, un pezzo di Elisa, un pezzo di Lucia, un pezzo di Mariangela, un pezzo di Sandra, un pezzo di Giuliano, un pezzo di Carmela, un pezzo di Monica. Non lo vedo. Ma se non lo vedo, sono miope, non ho ancora capito, non ho ancora visto. Grazie mille. Lì. Allora, già Enzo mi ha preparato la pagina del finale, però io voglio un attimo andare indietro, che è questo passaggio importante. Benedetto sei tu, io porto all'altare il pane e il vino, ok? E dico, il sacerdote dice questa frase: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Poi cosa dice? Frutto e del lavoro dell'uomo. Dentro in quel pane, simbolo di qualcosa di molto più grande, che diventerà addirittura il corpo di Cristo, dentro quel pane c'è il lavoro di Luigi, il lavoro di Veronica, il lavoro di Francesca, il lavoro di Maria Grazia, di Antonietta, eccetera, eccetera, eccetera. C'è il lavoro di tutti. Tutti stiamo portando all'altare il simbolo del nostro lavoro. Certo, non è che si poteva portare un grimaldello, un martello, la penna, la cosa. Cioè, avremmo avuto un altare di 4 metri, 4 chilometri quadrati per poter appoggiare tutte le cose. Si porta il pane, perché il pane rappresenta poi quello che andremo tutti quanti a mangiare, ma che è segno, proprio perché è fatto di tanti chicchi, segno del contributo di tutti. Allora, ecco, arrivo a quello che Enzo già mi ha preparato. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito. Quel pane non può essere più pane, deve essere qualcos'altro, ma ci vuole lo spirito. È lo spirito che ti fa vedere le cose in modo diverso, è lo spirito che trasforma le realtà. E poi aggiunge: ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Noi dobbiamo arrivare lì, comprendere che noi siamo un corpo. Capite che allora serve uno sguardo, che abbiamo chiamato sguardo simbolico, perché su in ballo significa mettere insieme. Andiamo avanti. Grazie. Lasciamelo qua, che poi magari, perché c'è anche la preghiera eucaristica terza, ugualmente, parla, tutte le preghiere eucaristiche ci devono segnalare questa cosa, che c'è qualcosa che io offro a nome di tutti. Arriva lo Spirito, trasforma, e quella cosa che andrò a mangiare ci permetterà di diventare ancora di più uno. Un'altra distinzione molto importante a livello di simboli, oltre a quella fra naturale e convenzionale, è la distinzione fra simbolo storico e simbolo immaginario. Simbolo storico è una realtà concreta che viene interpretata come rivelazione di una realtà non visibile, mentre il simbolo immaginario è una creazione di fantasia. Nell'Apocalisse ci sono tanti simboli, ma sono immaginari, no? I cavalli verde, nero, rosso che vogliono dire eccetera eccetera, il simbolo dell'aquila, il leone, il toro, eccetera. E sono simboli, quindi con le ali piuttosto che con gli zoccoli piuttosto eccetera eccetera, sono simboli immaginari. Ma nel Vangelo ci sono simboli storici. Facciamo un esempio: la guarigione del cieco nato è un simbolo. Ma con questo non significa che sto dicendo che quell'evento non è successo. È un simbolo perché il cieco nato rimanda ad altre cose. Ma quell'evento è accaduto, è un simbolo storico. Purtroppo, quando si parla di simbolo, la prima idea che viene in mente è quella di negare la storicità. Molti, cioè sentendo simbolo, pensano si parli di una fantasia, di una favola. Il simbolo, come è inteso nel Vangelo, è tutt'altra cosa. Gesù veramente ha guarito il cieco nato. E con quel gesto terreno voleva comunicare un significato. Per capire, Giovanni, nel Vangelo di Giovanni questo testo viene inserito, non basta dire che Gesù ha guarito un cieco nato e tutto termina lì, ma si deve capire che cosa significa questa guarigione, cosa significano quei gesti, perché ha fatto del fango, perché l'ho mandato a lavarsi alla piscina di Siloe, perché sputa per terra, perché gli impasta il fango sugli occhi, perché lo manda a lavarsi definitivamente alla piscina. Gesù stesso sta creando dei simboli, lo fa perché quello che compie è significativo. Le sue azioni sono dei segni che, correttamente interpretati, salvano. Quindi lui sta facendo delle cose. Il fatto storico c'è stato. Gesù ha incontrato un uomo che era cieco dalla nascita e lo ha guarito, mandandolo alla piscina di Siloe. La piscina di Siloe archeologicamente è stata trovata. Ok? Lo sappiamo, da pochi anni, ma è stata trovata. Si pensava che fosse un'altra, non collimava con il Vangelo, perché un cieco non può arrivare a una piscina che è alta e andare a semplicemente lavarsi, perché da quell'altezza non era possibile attingere acqua. Quindi si diceva il Vangelo non è corretto, non è esatto, in realtà è tutto simbolo. Alcuni anni dopo è stata trovata la piscina di Siloe, che è raggiungibile attraverso una scalinata che piano piano ti fa entrare nell'acqua e ti conduce semplicemente a lavarti con le tue mani senza bisogno di nessun aiuto. Ok. Dopo lungo meditare, anche Giovanni arriva al significato. Ci vogliono anni anche per l'autore che riporta il testo. Giovanni capisce che Siloe, dal participio passivo del verbo shalah, che vuol dire mandare, capisce che Siloe significa il mandato, colui che è stato inviato. Gesù è l'inviato per eccellenza. È lui che viene manifestato dal termine Siloe, l'inviato. Dalla piscina di Siloe arriva a pensare alla piscina di Gesù, ma la piscina di Gesù, quella che ancora oggi utilizziamo, si chiama battistero, è il luogo del battesimo. Il segno allora diventa simbolo, collegando due realtà che portano al senso globale. Il cieco di Siloe e l'uomo di oggi sono il simbolo di colui che battezzandosi riacquista la vista, riacquista lo sguardo di pienezza. Quel fango riporta alla prima creazione dell'uomo. Il battezzato allora è un ricreato, è un ridisegnato, è un reinventato. Oh, il fatto storico c'è, è un simbolo storico. È storico perché il dato è reale, è accaduto. È simbolo perché rimanda a tutti questi significati. Oggi diciamo che il cieco nato della piscina di Siloe non è altro che colui che vuole riguadagnare uno sguardo diverso sulle cose e si fa battezzare, è il catecumeno. Nel caso di Maria Santissima, nel Vangelo di Luca, si usa proprio il termine simbolo, symballein, c'è lo stesso termine, ma guarda, in che testo? Esattamente nel capitolo 2, versetto 19 del Vangelo di Luca, Luca 2, 18-19. Dice: tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Ora, quel meditandole nel suo cuore, in realtà, nella traduzione italiana, non è corretto. Perché il testo dice: Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, symballusa, mettendole insieme, cioè incastrandole insieme nel suo cuore e comprendendole appieno. Maria piano piano viene guidata a uno sguardo completo sulla realtà e sulle persone. Mette insieme più elementi e ricostruisce un totale che è molto di più e che è segno di una salvezza e di una guarigione. Infatti, mettendo insieme i vari elementi di stupore dei pastori, riconosce in suo figlio qualcosa di eccezionale, qualcosa che un domani si rivelerà ancora di più, qualcosa che consegnerà la salvezza a tutti. In latino, simbolum si dice sacramentum. C'è molto più familiare la parola sacramento, no? Se dire che Gesù è simbolo può risultare difficile, affermare che Gesù è sacramento è molto più facile. Gesù è il sacramento fondamentale. Gesù è il segno, lo strumento dell'incontro con Dio. Gesù mette insieme la nostra verità con la verità di Dio. Gesù interpreta tutto quello che ti capita e te lo mette in relazione al tuo destino. Con questo linguaggio, con questo significato teologico, possiamo affermare che tutta l'opera evangelica è sacramento, sperimentata nella Chiesa. Da Cristo sacramento deriva la Chiesa sacramento, perché la Chiesa ti consegna Gesù sacramento. La Chiesa ti consegna la via per raggiungere il senso pieno della tua vita. Da dove sei uscito, a dove andrai? E che come lo fa? Attraverso i sette sacramenti. Allora, quando io ungo di olio un infermo, un ammalato, Enzo vi potrebbe dare, penso, la stessa esperienza. Quando noi mettiamo l'olio degli infermi a un ammalato grave, in un modo o in un altro, c'è una guarigione. C'è una guarigione spirituale, o c'è una guarigione fisica, comunque succede qualche cosa. Perché? Perché andiamo con la fede e sappiamo che quello è sacramento di qualcosa di molto più grande. Quell'uomo malato, segnato dall'olio dall'olio che arriva dal Giovedì Santo, no, per intenderci, dalla messa crismale, quell'olio è in grado di restituire occhi nuovi a colui che le riceve, un modo nuovo di vivere la vita. C'è trasformazione, non è solo l'Eucaristia, perché uno che esce dal confessionale, vogliamo parlarne? Esce trasformato, liberato, sciolto nei suoi nodi più profondi. Ma questa è opera di Dio, è opera del sacramento, opera di Gesù, simbolo di questa unità fra cielo e terra. E noi, e concludo, possiamo avere uno sguardo simbolico? Come noi possiamo diventare simbolo? Quale sguardo dobbiamo avere? Sappiamo riconoscerci come simbolo, come sacramento di qualcosa? Quando una persona ci incontra, ci riconosce come simbolo, come sacramento degli oblati? Musica. Ta ta ta ta. Capite che se ciascuno va per i fatti suoi, uno che vi incontra non riconosce un bel niente. Mica riconosce il cammino degli oblati, il gruppo degli oblati, la chiesa che nella fraternità si chiama oblati, quel pezzo di chiesa che si chiama oblati, ma uno non riconosce niente. Riconosce un altro individuo come tanti. Uno che può dire delle belle parole, ma non rimanda a qualcosa di più, non rimanda a una presenza. Perché la gente non ha sete e fame di Fra Massimiliano, di Fra Enzo, di Sorella Monica, o di ciascuno di voi. La gente ha fame e sete di Gesù Cristo e lo riconosce, lo scopre in una comunità che si ama. Da questo capiranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Da nient'altro. Potete fare 100.000 catechesi, potete dire le cose più belle, straordinarie. Da questo capiranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Allora il nostro sforzo qual è? Quello di vivere l'amore. Come oblati, io non posso far finta che quello è in ospedale. E vabbè, e però quando è che facciamo l'incontro degli oblati e nessuno che fa una telefonata a quello che poverino sta in ospedale? Ma quello è degli oblati o non è degli oblati? È un tuo fratello? Ma è da qui che si capisce che tu hai scoperto con uno sguardo nuovo la salvezza, hai scoperto la fraternità, hai scoperto che Dio è amore. Da queste cose, dal fatto che tu prendi in mano, prendi la macchina e vai a trovare e dici: senti, hai bisogno di qualcosa? Sei in difficoltà? Perché? Perché è il gruppo degli oblati, è parte di me, è parte del mio cammino, è chiesa con me. Allora ho uno sguardo simbolico. Cioè, ma io vi racconto un fatto, no? Giusto per... anche per dire un po' anche le nostre di difficoltà, ma ero in camera, stavo male, avevo, non so, parlo di ormai passati 20 anni, stavo male, avevo problemi allo stomaco, problemi veramente di nausea, eccetera, eccetera. Allora arriva il fratello che mi doveva portare, era stato incaricato per portarmi da mangiare a pranzo e sapeva che io avevo questi problemi, così mi porta su un piatto di peperonata con dentro degli unti, dei sughi che io ancora oggi me li ricordo come un abominio, una roba, un orrore, un film dell'horror. Quando io ho guardato questo piatto, io ho detto, tra me ovviamente, ma lui gliene frega qualcosa che io sto male? Gli interessa essere chiesa con me? No, cioè, E questa è una banalità, ma abbiamo detto, lo sguardo simbolico è su tutto quello che io faccio, non su un pezzo. È un modo di vedere, è un modo di ascoltare. Sa di essere una unità. L'uomo in Cristo sa di essere un redento, insieme ad altri redenti. E dunque sa di vivere una vita umano-divina insieme ad altri che stanno vivendo una vita umano-divina. Allora io vedo sotto l'apparenza delle cose, vedo un qualcosa di più, vedo una realtà ulteriore. Ho questo sguardo, ce lo dà il battesimo. Vi racconto un fatto che ho raccontato proprio di recente. Un giorno arrivo in sala di ricreazione e c'era il padre Pancrazio lì che guardava la televisione, era sera, e a un certo punto io mi avvicino, non ho detto niente, forse l'ho salutato, lui mi guarda e mi dice: ma tu l'hai mai visto un millepiedi? Io, ma che domanda è? Cioè così a bruciapelo, senza motivo, no? Uno ti incontra per la strada e dice: ma tu l'hai mai visto un millepiedi? Tu dici: ma ci siamo? No? Tu hai mai visto un millepiedi? Non so cosa dire, sì o no? C'è un trabocchetto, c'è qualcosa che... È sospetto. La logica del sospetto ce la portiamo sempre dietro. A un certo punto gli dico: ma sì. Lui mi guarda e mi dice: non inciampa mai. Cioè, peggio della prima domanda. Non inciampa mai. Oh, sapete che cosa ho fatto? Di lì a pochissime ore, il giorno successivo, sono andato a cercare in pineta se c'era un millepiedi. E alla fine l'ho trovato. Cerca, l'ho trovato. E l'ho preso e l'ho messo su una superficie di cemento e ho aspettato che si ripigliasse un attimino e ho guardato, ma veramente non inciampa mai. È di una sincronia incredibile, quei piedini si muovono tutti insieme, uno in fila all'altro, ma a distanza di un millesimo di secondo l'uno dall'altro, no? Quindi c'è una progressione tra il primo piede e il millesimo, cioè quello in fondo, c'è una distanza temporale tale che permette a questo qui di non inciampare mai. E io ho detto: straordinario. Cos'è che mi voleva dire padre Pancrazio? Mi voleva dire: ma tu ti accorgi delle piccole cose, sai avere questo sguardo che sa contemplare la vita. Ecco, arriviamo a questa parolona. È un conto è vedere, è un conto è contemplare. Voi vi sapete contemplare l'un con l'altro, traublati? No, tra marito e moglie, fate i furbi voi due. No, tra marito e moglie, vi sapete contemplare, cioè sapete guardarvi con quello sguardo che vede oltre, che vede le fatiche, vede le sofferenze, le tristezze, ma vede anche le gioie, vede le possibilità. Capite allora come la calunnia, la mormorazione è uno sguardo tipico diabolico, perché ti impedisce di avere uno sguardo contemplativo sul fratello, sulla sorella o su una situazione. No, appare adesso, chiaro, dopo questa riflessione, appare evidente come lavora Diaballo, no? Colui che separa, il diavolo, e come lavora Gesù nell'unità, nella comunione. Chiaro che lo sguardo di Gesù è sempre uno sguardo contemplativo su di te, sempre. Cioè vede sempre davanti, vede le tue possibilità. Era bello stare vicino a Padre Pancrazio, perché ti trasmetteva questa cosa qua. Vedeva il tuo potenziale. Anche se in quel momento l'avevi combinata, non ce la facevi, eri prostrato, sofferente, scoraggiato, lui vedeva una possibilità in te. La vita vera, dice Rupnik, non può esistere senza simbolo. La vita vera. Come possiamo esprimere il mistero della vita che scorre sotto i fenomeni, il tocco leggero delle dita di Dio che sostengono ogni cosa, se non abbiamo occhi abituati a vedere tutto questo? Se io guardo la realtà e non so scorgere attorno a me che sotto quella realtà c'è il codice di un Dio che l'ha creata, io ho ancora uno sguardo solo e puramente umano. Sapete quanti? Mi diceva un amico, un ragazzo che è giovanissimo, e mi diceva: sai quanti ragazzi vanno alla Tour Eiffel a Parigi in giornata da Milano, fanno la foto di loro due con la Tour Eiffel dietro e poi tornano a Milano? Sapete quanta gente sale sul cucuzzolo di una montagna, no? Del Monte Bianco, del Cervino, sale su, si fa la foto e poi ridiscende dall'altra parte, senza avere un tempo ritagliato per guardarsi attorno e scoprire in profondità le bellezze della natura? Sapete quanta gente va a lavorare semplicemente per timbrare il cartellino e se ne esce senza essersi accorto delle persone che stanno loro accanto? Quanti infermieri vanno in reparto, sbraitano per 8 ore o per 6 ore e poi se ne vengono? Sapete quanti insegnanti non si rendono conto dei ragazzi che hanno di fronte? Trasmettono la lezione che hanno preparato la sera precedente senza vedere che di fronte a loro ci stanno dei ragazzi che magari sono in sofferenza. Li interrogano, gli mettono 4, senza dare nessuna possibilità al ragazzo di comunicare quello che sta vivendo. E dunque, alla fine dell'anno, li bocciano. Poi noi diciamo: Allora, stiamo proseguendo il nostro percorso per arrivare a scoprire un modo di essere servi dello Spirito. E lo Spirito ti permette di vedere tante cose. Ve ne dico un'altra. Quando uno vive di nervosismi e di ira, non riesce a servire lo Spirito, perché non riesce ad avere uno sguardo capace di cogliere nell'imprevisto la mano di Dio provvidente che sta modificando i disegni della realtà. Prese dall'ira, le persone hanno come dei vuoti di visione della realtà, per cui non si rendono conto più che lo Spirito sta modificando le cose in un certo modo piuttosto che in un altro. Dunque, devo lasciarmi consigliare da una persona che vive sempre, spessissimo nell'ira? Io, nella mia vita spirituale, cerco una persona che nel cuore è capace di avere la pace, di tenere la pace, custodire la pace e sa gestire le situazioni ansiose. Non si lascia prendere dal panico. Perché? Perché è un'interruzione della lettura. Allora, io servo dello Spirito, poi ci si arriva, non sto dicendo che adesso, domani, tutte le persone che si arrabbiano così non sono servi dello Spirito. Non sto dicendo questo, sto dicendo che questo è un percorso, un cammino per arrivare però a raggiungere delle tappe, degli obiettivi che nella vita spirituale sono fondamentali. Un oblato che non domanda mai come stai al suo vicino oblato, no, si siede accanto in gruppo, non so adesso come fate gli incontri, magari vi mettete in cerchio, parlate, state, vi sedete e si comincia a parlare, io sai, ho fatto questa cosa, no, perché io di qua, perché io... E quello che sta accanto gli fa, oh buongiorno, ci sono anch'io. Anche tu sei un oblato. Sì, sono un oblato. Sono 20 anni che sto con te a portare avanti il gruppo. E capitano queste cose. Questa incapacità di leggere, di avere questo sguardo. C'è un libro che vi voglio consigliare, che è abbastanza semplice, però è da prendere con serietà, perché contiene dei concetti molto belli ed è, si legge molto bene, è abbastanza semplice. È un autore che è fatto per essere letto. Ed è Anselm Grün, che molti conoscono, Ascoltare e vedere con il cuore. Ascoltare e vedere con il cuore. Questo è un bel aiuto per cominciare a vedere le cose in una maniera diversa. Ascoltare e vedere, anche ascoltare, è un grosso ostacolo, no? Per molti di noi, per questa società in modo particolare. Chi è che si ferma ad ascoltare? Anselm, come fosse Anselmo senza la O, Grün, con la U, la U. I due puntini, sì, la diaresi sopra. Grün. Anselm Grün. Ascoltare e vedere con il cuore, edito da Querignana. Costa poco, costa 13 euro, forse adesso costerà anche un po' meno, di qualche anno. Ci sono delle cose anche interessanti. Tra chi è cieco e chi è sordo. Ci sono ciechi che hanno sviluppato una capacità di vedere con il cuore incredibile, incredibile. E così anche i sordi che hanno sviluppato una capacità di sentire con il cuore incredibile. Tante volte ci sono persone che, cieche o sorde, ci superano perché hanno sviluppato dei sensi che fanno vedere loro in maniera simbolica, quindi fanno vedere l'insieme della realtà e sanno contemplare molto più di noi. Abbiamo fatto tardi. Direi che le provocazioni, di provocazioni ne avete avute oggi, tante. Soprattutto a misurarvi su quello che è il vostro vivere da oblati, insieme, come comunità. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.